si avverasse. Un esercito di prodi d'aver guidato e la vittoria e il plauso dimenti tutto. Aida, tornarti l'aure cinto, dirti per te ho coniato, per te ho vinto. Yeah.